10, c'è qualcuno in ascolto? Speriamo in bene. Sì, avremmo fatto così anche noi. Però le indicazioni dicevano Castelsardo. Sì, sono anche bello grande. Esatto. Speriamo che ci sia una bella circonvalazione. Finire? O ti devo far squillare lo telefono? Marco? Ehi, non intendi, no? Ho ripreso due volte. Mica il volume a zero, mi alza il volume. Cazzo, ma sto uscendo. Marco? Ehi, ma non mi senti? Non ti sento. Tu mi senti? Sì, io ti ho risposto quattro volte con questa. E tu non sei come io non sentissi, ma il volume è regolato. No, sto provando una radio, ma non... Mi senti tu? Sì, sì, io ti sento bene. Ma il segnale com'è? Qua tu non c'è il segnale. Com'è il segnale mio? Qua non ce n'è, Smitter. Lo sai. Che strano, cazzo. Che radio è? Cosa? C'è radio E. Aspetta. Ehi, non si può dire, da. Come non si può dire? Non devo volume, però. Sì, questo è l'altro per dentro l'armadio, lo stesso. Beh. Però, se non le usi le radio, c'è niente da fare. Ehi, fagli caricare i condensatori. Lo so, la roba non va lasciata ferma, se no non funziona più poi. Usali. Beh. Oppure regalali, soprattutto il GTL 210X. Affanculo, cazzo. C'hanno tutto l'RFG che è chiuso. Aio, quanto ci sei? 30 anni in radio e più, e fai ancora questi errori. Cazzo, mi stavo sorrentando, minchia, nuovo, E cosa vuoi, che ti mandi anche la foto di questa? Ah? Piuttosto l'abbinamento è sempre MB più 5, com'è la situazione? Bella. Sì, se mi vuoi mandare la foto, manda, me la dai. Se potevo dirla in radio, dai. Ehi, sappi che io di radio ne ho forse da vendere, più di qualcuno che si vanta, ma sono tutte dentro l'armadio. Questa è la migliore, diciamo, però per me è un bel ragione, non ne vale la pena. Aspetta un attimo. Ehi, ehi, Natalino, sei all'ascolto? Natalino. Allora, faccio una chiamata per doppio room. Doppio room, sei all'ascolto? T'ho visto passare in via Gramsci. Tutti morti, abominato al BMR. Dimmi. Fa bravo, aspetti, mando la foto. Eia. Credo anche di aver finito l'offerta internet, però piano piano arriva. Anzi, fammi pigliare lo smartphone. Ma non dire niente a radio, però che radio è, capito? Eia, va bene. Oh, in tutta segreti siete, mamma mia. Tutta segreti, io dico tutto. Mille a me è arrivata. No, ma non frega niente dire cacchi miei, di quello che ho, di quello che uso. Il radio mio da primo negozio, capito? Però non mi interessa. E allora regalamene qualcuna, no? No, beh. Regalare io non posso regalare niente, perché le radio sono state comprate sempre con tanto tanto sacrificio, capito? Ehi. Ah, bello! Aspetta, che bello! Bello, molto molto bello. Però come potenza, secondo me il Cobra gli fa le scarpe, o no? Allora, come potenza questo c'ha, gli scalaventi sono a metà potenza, questo c'ha 30 watt, capito? Questo è il modello 30 watt, 25 RAM e 50 in banda laterale, vai, però modulate nella 30. Ehi, bello, bello, bello, bello, sì. Questo deve avere senz'altro la scheda solita che ho anch'io, che poi è stata nel tempo riprogettata, dai, bello veramente. Le cifre verdi, no? Sono uguali a quelle del mio apparato, quello con frequency. Anzi, lo devo far girare perché è parecchio che ce lo fermo e non vorrei che si sciabidasse. Ehi, ehi, questa è nuova, nel senso di è nuova, nuova, usata se no 7-8 volte. Poi non ce l'ho posto là dentro l'armadio. No, io a costo di fare la fila verso il soffitto le avrei messe l'auge. Quella è una radio che non può stare nell'armadio, è troppo bella. Certo, è un po' grande, però è quello anche quello che la rende bella, capito? Ehi, ehi. Vediamo se Natalino c'è adesso. Natalino, ci sei? Chi altri c'è? Siamo noi, dai. Forse è uscito Natalino, sì, sì, d'altronde. Vorrei uscire anch'io, però... Sono andato a prendere due cose, due, da Lidl. Poi, vabbè, ho trovato parcheggio qua, lassù. Ma non mi conviene uscire di nuovo, dai. Quando vado, no, volevo provare un'antenna per quelle frequenze là con base magnetica, volevo fare il paragone tra attacco portiere e base magnetica. Mia Pomponio, scendi qua Pomponio, scendi qua, è sempre lì, mamma mia, un vizio, inteso l'hai, mia Pomponio. Avanti, tuo messaggio avevo richiamato PMR, ma ora io io lascio a te, lui vive del PMR, a me è proprio meno tutti, te l'ho già detto. Già sto ascoltando da poco fa, ma non mi interessa. Lascia perdere, meglio niente. Poi vi ho già detto, ho detto anche Giulio, se volete trasmettere il PMR, basta fare una frequenza nostra e si trasmette, non è che... Ma perché andare a trasmettere? Io lì non ci parlo, capito? No, ma infatti... Se vuoi ci scegliamo un canale nostro, se vuoi ti do quello omologato, che perlomeno qua o da Pomponio arrivi comunque sia, completamente omologato, capito? C'è anche il caricabatterie, però più di qua non arrivi, da Natalino forse non arrivi, perché sai, con... 200 mW di RF, 500 ERP, che secondo loro tu gli dai 200 mW, quell'antennina ridicola che è una mollettina di una penna stilografica o come si chiama, secondo loro ne dai 200 ne spara di più, è un quarto d'onda, mi guadagno è zero del quarto d'onda, c'è poco da fare. Ma cos'è questo zoom, come si sente quando schiaccio la portata? Caspita, si sente, rimbomba, va pom, pom. Allora, voglio provare in scala, a 200, vediamo quanti watt sono, in scala 200. Ehi, quasi 40 watt, 35 watt modulati, dai. Oh, via. Pomponio non riesce a avere un'antenna, grazie a Dio là. Bene o male c'è sempre problemi, o non la sentono lì o non la sento là. Io glielo dissi dal primo giorno, tu vuoi un'antenna buona, Sirio CX440 è piccola ed è buona. Niente, ha fatto di testa sua, è tostomi. Pomponio, riprendi qua. Ma cosa riprendi qua? È malato, deve parlare lì, PMR, boh, malato. Mi senti? Ma chi? Ah, ho capito, forse sta parlando con Marco di Olmedo. Marco di Olmedo, sì, che non entrava da parecchio. Ho capito. siccome me l'ha detto Marino, ti ho sentito ieri mattina con Pomponio da Olmedo, ho detto io ormai non sono andato. E infatti era Marco d'Olmedo, dai. Baracchino non so se ne abbia. Boh, non so nemmeno se ne abbia sto ragazzo. Va bene, dai, aspettiamo che entri qualcuno. Chiama un po' Claudio. Chiama un po' Valerio a vedere se c'è. Attento, Valerio, Alghei, a che si attarda? No, ma Valerio se c'era già mi rispondeva. Vediamo se sente il bip. Eia, sì, sì, è come quello di quell'apparato là. Ambello, lasciamolo al bip. Guarda, a me fastidio non ne dà, se vuoi lascialo pure. Grazie Claudio col bip. Cosa incredibile. Hai visto? Ah, anche io, CB la grande. No, no, lo tolgo, non mi interessa. Già va bene così, dai. No, ero preoccupato, Minchia, mi stavo diventando bianco. Perché non c'era segnale, non c'era niente, sai, tanti anni che non vedo, e poi lo sento occhiali, mi ho messo l'occhiale e ho visto le fake tutto a zero. Mamma mia, ho detto, che è successo qua? E le fake hanno abbassato. Eia. Dopo, fra un po' mangiamo. Ah, speravo entrasse più gente. Mi lavo ciafana ciò, mannaggia. Sai cosa ho fatto? Sono tornato da Lidl, mi sono spogliato, sono senza maglietta e mi sta prendendo alla gola. Mi sta prendendo la voce. Allora sì, già lo sai, te lo ricordi? Già me lo ricordo, sì. A voi me lo ricordo, era bella quella pubblicitaria. Va bene che va bene, ottimo per la truppa, sono qui della radio, ti piace, abbinamento va bene, lasciamo tutto così allora, ok? Deia, com'è il microfono? L'ha presa a quattro poli? Sì, sì, a quattro, c'è un adattatore che mi ha fatto Gigi dal 48 a quello lì che hai visto nella foto, capito? Perché non lo voglio invertire, perché con quel microfono io lo uso in tutti i baracchini quasi, dai. Però adesso c'è anche l'adattatore, quindi va bene così. Deia. Aspetta che abbasso un po'. Eia. Purtroppo stavo sentendo certi apparati comprati dalla Cina, purtroppo danno problemi quando si rovinano, perché non è assistenza alcuna in Italia. Poi tutto micro componenti, qua atterriscono gli occhi, è quasi impossibile ripararli, o meglio, ci deve essere un tecnico con la mano da chirurgo, con la mano ferma, che ci veda bene e che abbia la stazione ad aria calda, allora puoi operare su quei microcircuiti. È anche preciso, perché hai lo stesso segnale 4,40, 9 più 30, perfetto, perfetto. Questo facendo Marco, l'ultima cosa, poi lasciamo perdere i controlli, ma visto che l'ho collegato è meglio sempre stare. Alternata, non mi senti? Tutto a posto? Va bene così? Sì, sì, non ce n'è alternata, sento le voci in casa tua, da lontano. No, no, è la televisione nel salone, altro che. Eia, è bella forte, forse, dico forse più forte di quella che stai usando l'altro giorno. Che apparato era? Manco me lo ricordo. Non me lo ricordo, dai. E basta con queste mosche. Mamma mia, spero che arrivi il freddo più prima possibile, perché noi lasciamo molto aperto, no? Le finestre per arigiare, entrano sempre mosche, mi danno fastidio. Come si vuol dire, sì, come si vuol dire, quando ti salta la mosca al naso, mi? Ah, il cobra stavo usando l'altro giorno, adesso ho rimesso dentro la scatola, ho messo sto barragione. Va bene che va bene, dai, tu li facciamo riposare. Il vecchietto lì che è sempre, sono sempre accese con le due radi, adesso l'ho spenta, lasciamo riposare un po'. Eia, ti eri sentito con Franco Di Sorcio? Da entro pochissimo. No, perché mi stava cercando? No, siccome ha detto che si sta presentando sul suo 440 il problema dei puntini, no, il solito problema notissimo del 440, ho detto chiedi a Claudio quanto si spende, se ritieni che ne valga la pena, lo dai a Bianconi, però te lo fa nuovo, è nuovo, ci fai altri 30 anni e anche di più. Quindi magari se dopo entra gli direi quanto costa. Quanto costava più o meno la revisione e la, il problema del VCO, quello dei puntini? No, non è VCO, non è VCO. Sono i condensatori da cambiare, se è come quello che avevo mandato io, sono i condensatori da cambiare, rifare tutte le tensioni, è un grande lavoro, un lavoraccio, capito? E poi tutte le tarature e tutte le cose, non è bugione. Allora io me l'avevo mandato Sandro del Polo Prose, perché sono amici, e avevo speso tra andare e tornare a riparazione 240 euro. Purtroppo. E poi sai, pesa un po', quindi la spedizione costa di più, andata e ritorno. Caspita, sì, la spedizione non l'avevo considerata. Io ricordavo 200 euro solo per il lavoro. E la spedizione non l'ho contata, quindi caspita. Vabbè, conta che comunque un 4,40 costa. Quanto costerà se lo trovi? Almeno 400 euro, no? Quindi ancora conviene metterlo a posto. Ritorna nuovo poi quando lo revisionano, no? Cosa, scusa che mi sono distratto un attimino? Ehi, contando il prezzo di un nuovo 4,40, conviene metterlo a posto, no? Cioè, ci hai capito cosa intendo, no? Ancora conviene metterlo a posto, te lo fa nuovo, vero? Nuovo te lo torna. Vabbè, il mio nuovo sì, però te lo devi tenere, non è che lo puoi vendere, se quanto lo vendi. Io il mio l'avevo riparato perché me l'hanno dato così, capito? A me me l'hanno dato così, l'ho comprato praticamente a metà prezzo, 200 euro. Però aveva già il problema dei puntini, quindi connessatori e tutto a revisionare, perché era sempre dentro l'armadio, era fermo, capito? E quindi l'ho comprato a 200 euro, ce l'ho speso altre 240, però me lo tengo, ce l'ho già un bel po' di anni. Infatti avevo dato il 680 e il 140, mi ha tenuto il 440 e il 430, che me l'aveva un po' revisionato Fabrizio, perché era in condizioni, insomma, un po' mi aveva cambiato il frequentimetro nuovo, un po' revisionato, però anche lui mi aveva detto che prima o poi quello mi lascia a piedi, perché sono radio vecchie, mazzo, non sono radio che oramai sono più affidabili, capito? Ormai l'affidabilità te la dà un bel baracchino e basta, quelle sono radio andate, basta che tu la lasci un po' spenta. Oppure usi anche, a quanto mi ha detto Bianconi, l'alimentazione più alta del 13,5 e ti mangi i condensatori, la crepi la radio, la crepi. Infatti io ho l'alimentatore a parte su 4,40 da 30 ampere switching ed è neanche a 13, 12,8 proprio quasi 13, 12,9, capito? Neanche 13,5. L'ho messo così in modo che insomma la radio non scalda molto, non prende in pieno tutta l'alimentazione che le dai, eccetera, capito? Però Franco, se la ripara se la deve tenere, perché sennò perde i quattrini, perde un bel... che poi ti ripeto, io allora Sandro me l'aveva mandata, guarda, io penso 3-4 anni fa, una cosa del genere, perché era ancora al villaggio, abitava, è già un po' di anni che abita lì, a Balai, quindi almeno 4 anni buoni, quindi può assicurare che il prezzo sia aumentato anche per la riparazione, capito? Non lo so, deve chiamare Bianconi, se vuole io vedo il numero, chiama, si mette d'accordo, se è fattibile mandaglielo, va bene, se no lì c'è da rifare tutte le tensioni, mettere i condensatori, cambiare un bel po' di componenti, capito? C'è tutta la parte degli VC che va tutta ritarata, rimessa a punto, rifatta, è un lavoro del cacchio, un lavoraccio, capito? Passione ci vuole a fare quel lavoro, mamma mia. Eia. No, ma se lui la giustamente se lo tiene, se no ci perde, capito? Ci perderebbe. No, lui, ma non aveva intenzione di... cioè se se lo aggiusta se lo tiene giustamente, ritorna nuovo, chi glielo fa fare? Perché tanto nessuno gliela paga la, la revisione di 200 euro in più, oltre al, al valore della radio, capito? Bene, bene, riesci a vedere? Allora la foto l'ho vista, sì, ho visto che sotto c'è il DAC, comunque il DAC è... sai, è bello anche perché è diverso dagli altri apparati, è spettacolare il DAC. E davvero, tutti quegli indicatori sembravano più lineari che un apparecchio. DAC è bello, DAC è bello. DAC è bello, colpa mia, l'ho provato e va benissimo anche con l'MB5, ma da 4 watt. Valvole completamente da sostituire, adesso ho chiesto a, proprio a Carlo se mi procura le valvole, gli metto le valvole nuove, lo faccio andare tutto, lo uso, perché anni fermo. Lo accendo ogni tanto, l'ho sempre acceso ogni tanto, però no, non l'ho mai usato, capito? E c'ha le valvole completamente esaurite, proprio quella di che eccita praticamente la prefinale della valvola, perché non dà neanche un watt, quella deve dare 5 watt pieni e deve eccitare l'altra che ne deve dare almeno 15-20, invece da 4 watt. Va bene, c'è nessuno sul canale 10, la mazza che viene varia? Sono tutti a dito nel sedere, come si suol dire. No, Natalino sarà uscito, dai, a fare commissioni, oppure sta preparando roba per la pesca. Sì, sicuramente. Sbadiglio, se comincia a sbagliare già da adesso. E vabbè. Dai, qualcuno entrerà, dai. Aspetta, Marconi, che mi stavo dimenticando di Pippo, ero impegnato qua in stanza, mettendomi a posto l'armadio e togliendo baracchini e barracconi, e mi sono dimenticato lui. Aspetta, che la pappa, un secondo. Fai tutto, non ti preoccupare. Attenzione, binario 10, cambi. Ti ho visto il via Gramsci. Dove sei, Marco? Adesso a casa, ero da Lidl a fare una mini spesuccia e all'altezza proprio davanti a Conad. Sì, ero in giro, sono andato a portare Marco. Yeah. C'è anche Claudio, sta dando da mangiare al cane. E adesso sono in fretta. 7:20, di già. Anzi, io dico così tardi. Io dico presto, perché al cane solitamente lo do alle 8. Sì, yeah. Ma oggi non c'è quasi nessuno, solo Claudio è entrato, dai. Sta facendo delle prove con delle radio. E lui esce sempre bene. È inutile, c'ha una voce. Qualsiasi radio li dai esce bene. Io conosco. Bene, bene. Però vedi, il 140 con le nostre voci non andava un granché bene. È questione di corde vocali. Boh. Infatti io preferisco sempre i baracchini, dai, alla KF. Ok, buona serata, dai, anche oggi. Vorrò fare delle prove con un'antenna UHF, però poi ho detto, poi torno, mi devo dannare per il parcheggio. Sto diventando schiavo del parcheggio anch'io, Una cosa, il segnale com'è che sto provando la PLC 800, ciò? Parla con me la prova. Oh. Parte mia, via Corraduzza. Sei a Fondoscala, dove vuoi andare? Sei a Fondoscala. Oh, figa, tu, Marco, ti capisci, sei troppo forte. Oh, yeah. Lo stress è finito, andate in pace. Io smitter non ne ho. Ehi, sono tornato alle 2 anch'io, lo stress è finito. Infatti mi sono dedicato a sistemarmi l'armadio. Ne ho tolto un po' di baracchi e baracconi, quindi questo e l'altro, sempre con l'MB più 5, Yeah. Cava cava. Bene, esce già. Sì. Questa qui invece è la nuova antenna che ho usato, la PLC 800, sulla base della Turbo 2001. No, va bene. Segnale, vabbè, sì, 9, sei sopra dB del 9.30, sì, capito. Va bene, allora. Già va bene, ah, il pulsante, no, che si è attaccato lo bip. Vabbè, riprendi Marco lì. Veglia. Va bene, stavo pensando quasi quasi di, te l'ho detto, mettere un apparato che non uso da molto. Andrebbe fatto lavorare, quasi quasi lo dissotterro, perché è proprio sotterrato, e lo attacco, dai, così levo questo ridicolo apparecchio senza smitter. Guarda, se mi date un po' di tempo, modulate due Gianni, dai, io cerco di pigliare quell'apparato, dai, va, blackout. No, no, scusa, stavo pure per un giorno. Aspetta, stavo dando da mangiare a Filippo. Sì, lui mangia per ora, 6:30, 7:15, perché fa due parti, uno lo fa a mezzogiorno, capito? E basta. La mattina non mangia, la mattina presto. Mangia a mezzogiorno e poi alle 6:30, boh, finito. Ma che tanto fa due parti? Non mangia, vabbè, per dare il gusto. 3:30 mangio, 3:30, se arrivo alle 2:30 mangio alle 2:30. Però la sera io glielo do messo le 8, e quando mangio si mangia tutto. Ehi, Filippo, la luce dalla ciotola. No, no, ma poi, capito, Filippo poi non dorme, c'ha la digestione molto lenta, quindi io vado un po' prima, poi le faccio fare una passeggiata verso le 7:30 e basta, capito, già. Ui, ui, ui. E chi c'ho, eh? Allora, non copro, ha giubucato 7.000, ha giubucato l'altro, questo è il quarto. Mi sa che ce n'è altre due così grandi, mi manco. Marco! Comunque, questo qua... Oh, già, che poco fa ho attaccato a San Radio, e Marco era Santiago 2. Tu candy, senza occhiali, non volevo un cacchio. E c'era il referito tutto chiuso, mi sono spaventato, mamma mia! Ah, ho capito. Va bene. Bisogna usare le radio già, bisogna usarle. Baracchini, radio, qualsiasi cosa sia, bisogna usarla, capito? Se no è un casino. Ma se lasci ferma, entra la polvere e cose e si rovinano. Poi vabbè, là. Adesso già le usiamo, adesso sono il turno di mattina e posso usarle di nuovo, là. Perché quando uscivo dal lavoro uscivo alle 9:10, non c'era più nessuno, accendevo ma non c'era nessuno, poi ho detto, è utile che accenda, alla fine mi sono acceso, accendevo la radio e buco. Infatti, già va bene. No, questo è 2:20, qui ho tutti gli alimentatori spenti, tutta la parte che è alimentata l'alimentatore è tutta spenta. Questo è 2:20, almeno facciamo andare un po', dai. Comunque sono contento che esce bene. Questo è il mio BP5 già, qualità prezzo, boh. O si adeguano alla mia radio, perché io ho sia il più 4 che il più 5, escono tutte e due veramente molto bene con me. Boh. Ma quello lì è stato modificato, mi pare, la GG. Sì, sì, questo la capsula è modificata, sì. Non è la sua. Anch'io l'avevo modificato e ci va bene quello lì. Poi Stefano mi ha detto se glielo davo che mi dava in salenza. E io ho detto vabbè, dai, te lo do a te. Mi ha detto era nuovo, nuovo, nuovo. Sì, vanno bene. No, io salenza l'avevo letto a Giulio. L'avevo regalato a Giulio con l'HB23. Io mi sono tenuto l'MB+4 e l'MB+5 come microfoni da prezzo, dai. E poi il tane più 2 e il tane più 3. Quelli li ce li ho sempre, quelli non si toccano mai. Già, ma io sto usando la stessa radio tua, Io sto usando quella già, con l'MB+5 non è detto, io ho sempre detto che non è mai colpa del microfono, è sempre colpa a volte della nostra voce, della nostra portata, delle nostre corde vocali, capito? Perché se io sto usando l'MB+5, vabbè che è modificato, però con la stessa radio tua va bene, lì bastava al limite cambiare la capsula all'MB+5. Vabbè, no, questo, ti ripeto, questo mi ha dato Gigi e fenomenale il microfono, va bene addirittura con l'Alan 48, era una canonata, va bene col DAC, va bene col Cobra, va bene con tutti i baracchini che ho, capito? Va bene, evidentemente la capsula è azzeccata anche alla sua voce e quindi ottimo per la truppa, va bene. Però già vero, ma è mese parti, sì. Quando sei entrato nel... nel cancello in mezzo si crea per segnare un bene, l'altra non lo faceva già. Eccomi. Ehi, ehi, già sono qua, intanto sto aspettando che deve passare Massimiliano, io devo dargli un carretto. Va bene, va bene. No, no, comunque si sentiva roba sotto a casa tua, quindi non c'è problema. È proprio come hai girato e si è messa la macchina. Deve essere in zona d'ombra proprio con i muri. Vai Marco, riprendi. Eia, ecco qua. Questo sarebbe un... come il Pluto però cromato. E inoltre la potenza di uscita è fissa, dai. La modulazione come rispetto all'altro? 1, 2, 3. Il microfono è lo stesso, solo l'apparato cambiato, dai. Una missa c'è, molto ma molto molto più forte. 50% in più di modulazione hai. Già lo credo, perché l'Intec è... come si dice, l'Intec è Intec. È pur sempre un omologato piccolino, sai, di sì. Questo è migliore, dai. La sigla è Super Jopix 2000. La foto non c'è bisogno, te la mandi, no? Mia, Valerio, a voi. No, no, ce lo conosco. Ha voglia, ma è una bella radio quella. Una bella radio. Quella è quella che volevi dare a... a Cosio, a... va. Ehi, buonanotte. A quelle produttore. Va bene. Ciao Valerio, buonasera, ben ascoltato, avanti. Ehi, questo è un altro barattino, vorrei. Questo è sempre l'MB più 5, a metà, non molto, anzi è meno della metà, toni a zero, watt e una ventina, 20-25 watt modulati, dai. Dove sei tu, a casa? Perché va bene come radio, segnale, tutto a posto? Oh, l'ho attaccato poco fa, giusto per provare. E vabbè, la potenza anche di questo è limitata, ce l'ho a metà potenza, dai. Allora così a metà potenza. E così era... così a manettone. Però io lo metto così, guarda. Ecco qua. Lo lasciamo a 10 watt, 20 modulati. Ehi, Valerio. A Bosa, si è sentito un rumore dalla cucina. E allora, Valerio, come va? Ieri sera, aspetta, manco mi ricordo cosa stavo facendo e con chi ero, che altro c'era sul canale quando sono sparito, ricordamelo. Eia, no, non me lo ricordo, la verità, non mi ricordo cosa stavo facendo ieri sera, quando ho chiuso. Ancora viva, vale. Ma cosa c'è, il colore della rogna? Sugar. Vabbè, ma infatti io l'altro giorno parlavo proprio di questo, che la vergogna più totale è che una donna possa stare in quelle condizioni lì buttata per terra, cioè non esiste, capito Vale? Non esiste proprio, per carità, che schifo, mamma mia. Adesso me la crociero. Cosa fai? Che tuo ci vuole? Me la crociero, me la ciuppo. No, ma loro stavano scherzandomi, già si è capito, sì. Oh, secondo arrivo subito. No, dico loro, quando dicevano che era la mia ragazza, stavano scherzando, ci mancherebbe. Eia, adesso vediamo se riesce a sopravvivere a questo inverno. Guarda che lì c'era dall'estate scorsa e si è fatta tutto estate, autunno, inverno, primavera, estate. E ha sopravvissuto al freddo dell'inverno, al vento forte. Quella mi sa che non la vuole manco la morte. Allora, l'altra estate, non questa estate, l'estate scorsa era... aveva una tenda a ridosso della rotonda. Sì, sì, te lo garantisco. Guarda, cerca sulla Nuova Sardegna Elsa Sottegia, Elsa Sottegia è il suo nome. Ci sono tutti gli articoli che la riguardano. Come vale? Eia. Poi quella appunto è stata nell'anonima sequestri, si è fatta 20 anni di galera. Beh, diciamo che l'età non è chiara. Hanno detto varie età e non si sa qual è la vera età. Comunque sì, è una rottura di scatola, non ce la leviamo più di mezzo, è uno schifo, tutto pieno di scatolette di tonno buttate lì nelle aiuole dove c'è il verde, non va bene. Sto cominciando a pranzare, all'ora della cena. Vabbè, dai, tanto adesso entra Claudio. Natalina non c'è oggi, l'ho chiamato più volte. Ascolta, com'è questa modulazione? Questo è come il Pluto però cromato e sto usando il microfono da palmo della ZG. Ciao, buona. Ti ho risposto, sei tu che sei rimbambito. Non t'ho sentito io. Mia Natalino, Valerio. Sì, c'era doppio room in macchina, però è tornato a casa e non so se riprenderà. Scusate un attimo, c'è gente, arrivo subito. Ciao, buongiorno a tutti. Un attimino che stiamo chiacchierando, devo guardare del materiale che le serve, un sacco di cemento, la carriola e la paletta, e poi si toglierà le balle. Natali, mica che ti sta chiamando Valerio? No, sento. Cosa c'è, col QRM di nuovo? No, c'ho poca ricezione, ecco cos'è. C'ho l'antenna bassa. Quando è da casa sua non arriva. Guarda che sta uscendo forte, mi è 9 pieno. Fammi vedere il segnale tuo, Valerio, sia portante muta sia parlando. Allora, su questo apparato, portante muta 9 più 5. Naturalmente gli apparati non sono tutti uguali, no, come Smith. Portante muta 9 più 5, modulato 9 più 10. E qua non arriva, io ho il QRM a 5. Eia. Natali, però è strano che ci sia questa differenza abissale, qua 9 più 10 modulato, vabbè fai 9, fai che sia 9 e tu niente, pare molto strano, ma perché è più basso, ma io ho anche 50 metri di cavo, mi sono un bel di perdita, e alzata va dai, va alzata, c'è poco da fare. Secondo come va ce la butto, non la alzo, ce la butto. Cazzo, disturbo questo, quell'altro, non posso alzare, non posso fare. Si mi rompe le balle e mi cavo giù tu, perché qua no, non è possibile in queste condizioni. I vicini sono sempre rompiballe. Bisognerebbe abitare in una villetta da soli e fare tutto quello che si vuole. Mettere le antenne che vuoi, di poli, tutto. Però purtroppo mancano gli sghe, come in quel film dei primitivi, il denaro li chiamavano gli sghe. E poi sai cos'è Natali? Mentre 30 anni fa, per esempio, di notte c'era un silenzio di tomba in radio, adesso ci sono tutta questa lampadina LED o queste tipo neon, no, che disturbano un bel, poi ci sono televisori che disturbano, oppure gli alimentatori dei televisori, cioè tutte queste cose sommate, i computer, che una volta non c'erano, adesso creano molto disturbo, molto QRM elettrico. E una volta non esisteva il QRM elettrico di questi elettrodomestici che esistono adesso, capito? Si è sporcata un po'. Caspita, come diceva bene il Radio Antrodi. Ah, Vittorio Giove, mi. Ne l'ho anche spento, c'è Vittorio, più che l'R4 non riceve, boh. Burp, aspetta un po'. Scambio, se ne sono andati, mannaggia, dallo BMR, vabbè, pazienza, diciamo Natalia, a pescare quando vai? Sì, non lo so, non a Giugana, ho messo a posto le canne, però non ne ho voglia, sono con le balle girate. ma un po' depresso anche, perché ogni tanto io sono proprio giù di morale, me. E io sono più giù di te, perché a me a stare fermo qua, già cazzo non posso fare più nulla, perché cazzo non mi sento bene. Io per quello sto molto a casa, Nathalie, perché ho troppo bisogno di stare o seduto o sdraiato. O seduto o sdraiato, meglio ancora sdraiato, perché ho questa pressione bassa e tutto messo male sono. Tra la schiena, la pressione bassa, la stanchezza cronica, cosa devo fare? Non mi posso manco più fare pippe perché mi stanca troppo. Cosa devo fare? Appendere l'uccello al chiodo? Lui finisce, ma l'anno scorso sono caduto io scendo dall'ufficio di collocamento, ed ecco adesso mi ricordo cos'è quel dolore che mi viene al femore. Ah, per quello, no, io credo malessere generale. E d'altronde quando fai l'analisi è tutto a posto, non so più cosa pensare. Ecco perché sto diventando anche sedentario, mi riesco poco, perché sono sempre stanco, anche quando guido sono ansioso. Lo sai, guidare mi mette un po' di ansia, non so perché. Tendo a stringere i pugni sul volante. Non vedo bello rilassato le mani, tengo i pugni sul volante stretti, no? Com'è che si dice il sardo? Chi non ha la pesa e la conca? No, no, Marco, ti ammazza così, Devi uscire, perché sennò ti uccide a stare a casa così. Dopo diventi peggio di me. E poi sai cosa mi aveva detto l'urologo, no? Per la prostata. Mi ha detto chiaramente che devo spruzzare di più. E tu spruzzavi più? Siamo alle 10, prova radio, cambio. Avanti, prova radio, buonasera. Buonasera, se sentite Gianni da Campanella, cambio. Ciao Gianni, ben entrato. Aspetta, la Campanella ha un segnale molto molto forte, troppo forte per essere la Campanella, in compagnia di Marco e di Natalino. Natalie, io finisco di mangiare, dai, se no non riesco a parlare. Vediamo se è rientrato Claudio e se è rientrato anche Valerio. E infatti mi sa, avanti l'amico, dai, è uno scherzo, chi è? Giulio, chi può essere? Boh. Positivo, quella è la mia, la moto è la mia, cambio. Allora hai fatto male i conti. No, sono sempre fuori per lavoro, rientro la sera, anzi, vedi anche presto. Guarda, fra un po' puoi chiamare, lo devo mettere, in movimento, sta apparato. Come funziona? Come mi senti? Capagappa, meglio così, vuol dire la radio funziona bene bene. Comunque Valerio, qua il segnale è praticamente in città. In città, non fosse la Campanella. Vabbè che va lì, anche sentendo te, caspita. 9 più 5, 9 più 10, da Alghero, non so se mi spiego. Positivo, ti ringrazio dal controllo radio e tutto alle prossime. Ciao e alla prossima. Eia, l'amico, un attimo, voce leggermente nasale. Leggermente nasale, però forse non è l'apparecchio ma la voce. D'altronde anche io ho la voce nasale. Comunque è buono, buoni controlli, dai. La mia voce. Ti capisco, perché anch'io ho il setto nasale deviato e purtroppo. Natalino, lo senti questo amico? Natalino è demoralizzato, non ci pensare a Natalino, pensa alla patata, quella patata pelosa, me. Attento Natalino, cambio. No, e ogni tanto entra e sparisce. Dai, non gli c'ha da fare, magari sta cucinando. Piuttosto, Claudio, ci sei ancora lì? Anzi, ci siete ancora, tu e Massimiliano? Sì, siamo ancora, vi stiamo ascoltando, un secondo solo, sto parlando, se no è un casino, capito? E siamo qua comunque, siamo presenti, saluto anche l'amico che è entrato. Ciao Claudio, grande l'amico di Massimiliano, attento bulldozer, senti mega vagava. Ciao, via Gianni. Ciao, ciao. Siamo qua a casa, è venuto a trovarmi, ma c'è la sua. Capirà se non sacco di intrugli, e più quando sale a sasso è passato a rame, capito? Se no già lo sai che le compro veramente io già. Positivo Claudio, no, ho preso un nuovo, una nuova radiolina, la stavo provando. Va bene già, modulazione normale, tutto a posto, stai uscendo perfettamente, capito? Non c'è problema. Dai, rimango un attimo in quel rix e poi vi richiamo appena va via Massimiliano, ok? Positivo, tutto dopo allora. Riprendi Marconi, fai girare tu, già siamo qua. Ehi dai, sto finendo di mangiare, un attimino. Eccomi qua. La pappatoia è finita. Attenzione l'amico di Campanella o da Campanella, come ti posso chiamare di nome? Carmelo Campanella. Ehi, siamo rimasti in pochi, vediamo, proviamo a fare l'appello. Valerio, eia, finito di fare la pappatoia, dai. Natalino va e viene e va. Dimmi Claudio. Positivo, proprio sulla strada, guarda, c'è un'unica antenna che vedi della mia. Positivo, quando passi chiama e si prende la radio così. Oh Valè, ti ricordi che modulava la campanella Isidoro 30 anni fa? Mamma mia quanto tempo è passato, una vita. Guarda, io sentivo Isidoro, non so se ce ne fosse un altro pure. E poi, vabbè, c'è stato un ricambio generazionale. Non modula da un'eternità, credo. Ma uno può essere radioamatore come Claudio, eppure modulare anche in 27. E certi non lo so perché, forse credono di essere superiori e non si degnano più, come ho detto ieri, di abbassarsi a scendere in 27, capito? Ma dipende dalla mentalità della persona quella, dai. E poi cosa ti volevo dire? Tu me l'avevi detto, tu quando sei entrato la prima volta in radio, me l'avevi già detto? Caspita, un sacco di tempo fa, parecchio, io ero entrato nell'84, in estate, proprio all'inizio dell'estate, e ovviamente mi era capitato Paoletto, il primo che ho contattato col portatile era Paoletto, e ti paria, e io più o meno, io verso il 93-94 mi sono buriato, magari la concessione la pagavamo ancora per qualche anno, perché comunque il baracchino c'era sempre. Insomma, verso il 94-95 sono sparito e poi per riapparire 15 anni dopo, nel 2010, quindi fai 95-2005, 2000, sì, 15 anni dai. E qualche apparecchio mi è rimasto da allora, anche funzionante, tipo l'FM500S, l'omologato di allora, no? Il portatile Maxcom 7, insomma, ancora incredibile, dopo tutti quegli anni ancora funzionavano. Vuol dire che erano progettati bene, fatti bene, con buoni materiali soprattutto. Avanti Gianni, riprendi tu? Natalino? Dimmi. Riprendi, dai, parliamo. Stiamo parlando dei vecchi tempi, mi. Eh sì, anch'io ero entrato col portatile, una coppia di portatili, no? Però noi della 27 non sapevamo nulla. Non sapevamo, cioè l'avevamo preso per parlare tra di noi in campagna, in gita, che ne so. E sentiamo queste voci che arrivavano anche bene. E a me è capitato Paoletto, invece mamma come entrata ha beccato Gavino Dinamite, mi, Natalì, quello che abitava in piazza Castello lì, un'altra bocca di scandalo, mi. Ecco. E poi da lì, dai, abbiamo preso soprattutto l'antenna esterna, una Grand Plain, e ci si è aperto un mondo perché sentivamo un bel di roba, si sentivano molto più lontano. Poi il primo 23 canali ce l'aveva dato Marco Mandingo, ce l'aveva regalato, come dire, siccome era da Mario M2 in riparazione, no? Ha detto, vi pagate la riparazione, 30 euro, e ve lo tenete, perché tanto lui ne aveva altri. Anche lui, caspita, manca da secoli, ma non, E poi lo sapete che c'è molta gente che i baracchini ce li ha, i baracchini di allora, però non entra, ma allo stesso tempo non li vende. Capito? Li tengono per martire forse, non lo so, come ricordo. Infatti. Sai quanta gente appunto alla radio e si andava a chiedere e dice no, non vendo nulla. Ma non usarle. Perché tutta roba sprecata, ma chissà quanti baracchini belli ci sono in giro, chiusi negli armadi. Purtroppo. Riprendi Valerio. Perché loro non erano veri amanti della radio, lo usavano solo all'epoca come mezzo di comunicazione, perché non c'era altro, tutto lì, e molti hanno fatto così. Io invece non sopporto Facebook, quei social lì, che devi mettere in piazza tutta la vita, lavoro, età, che metti le foto di quando sei al mare, di quando sei al cesso, di quando sei trombando, ma quando mai? Per esempio, rispetto a Facebook, no, che è tutto pubblico, no, preferisco molto di più WhatsApp, che è una cosa a circuito chiuso, tra noi CB, ci mandiamo le foto, i documenti, le vignette, scriviamo, parliamo, capito? Molto versatile. E soprattutto però è più a circuito chiuso, cioè comunichi solo con la persona direttamente, capito? Invece di spiattellare tutto di fronte al mondo, no? Tra ste mosche, mamma mia, e vaffannapoli, sembra che gli piace il baracchino alle mosche, lo sai, non lo so, sarà che è luminoso, che è tiepido, stanno scocciando. Volevo chiedere, Natali, tu che canne ti sono rimaste? Come che canne mi sono rimaste? Quelle due che ti ho detto. Ma la lunghezza non mi ricordo. 2,70 e 3 metri. 3 metri è già buono, mi. Io in spiaggia preferivo, ripeto, quella a Riccio Barrasoni, 4 metri e mezzo, grossa, poco flessibile. Meglio, il cimino è sottile, però io non faccio lanci troppo violenti, capito? Con quella grossa è pesante, preferisco fare lanci discreti con quella da 3 metri. Quanto tempo che non vado a pesca? Né sub e né a canna. Vabbè, deciderò, dai. Devo ancora cercare il vecchio permessino, vediamo se l'ho salvato sul computer, perché se non l'ho salvato sono un grande cretino, perché l'ho perso, quello stampato l'ho perso. Anche io l'ho perso, e non ho salvato nulla, non ce ne vuole, capito? Non bisogna nemmeno esibirlo? No, perché non bisogna rinnovare niente, non ti controlla nessuno, chi ti controlla? E anche se ti controllano non ce n'è bisogno, perché non... era un censimento che avevano fatto. E se ti ricordi, erano sul punto di far pagare la licenza di pesca. Pesca in mare, perché si sono fatti due conti, no? Dice, caspita, qua abbiamo... che ne so... 200-300 mila persone, non lo so quante siano le pesche, 500 mila, 1 milione, e dice se li tassiamo guadagniamo tot da ciascuno, e caspita, poi ci sono state proteste da parte dei pescatori, insomma hanno sopraseduto, però il censimento serviva a quello principalmente, per sapere quanti pescatori erano, e comunque non è escluso mica che in futuro possano tassarlo, anche una cosa minima, una cosa simbolica. Ma ne prendono di fatto dai pescatori professionisti, quelli sportivi non c'entrano un cazzo. Già, per la qualoce che ci vuole la licenza. E poi vogliono passare anche la pesca in mare, che ci va uno ogni morto di papa, mai io. Esatto, guarda me, se metto tutto in auge andrò una volta all'anno, due, così tanto per... è ingiusto pagare il pescatore così. Poi vabbè, ci sono quelli che hanno culo, che pescano pesce su pesce e mi si svuotano a mezzo mare, scherzando naturalmente, però tassate i professionisti, ma un povero cristiano che va una volta al mare ogni morte di papa è proprio il colmo, l'hanno detto tutti, è il colmo. una è 3,50 metri, non è 3 metri, e l'altra è 2,70 metri. 3,50 ancora meglio a Talì. Guarda, se c'hai il polso buono, mi ricordo una volta al Ponte Romano, no? Quando ero un ragazzino, vedo questo con una canna sottile, sottile, di quelle come tipo la mia, no? Molto maneggevoli. Questo mulinellino, no? Ho detto, ma se fa questo lancio, con una mano sola ha dato un colpo di pollo, sta, e poi vedi il piombo, si è finito sotto il ponte grande, dove passano le macchine. Io allibito, allibito, perché avevo canne che facevano pochi metri. Quello sì che era una bella, magari il mulinello era anche buono, che ne so, magari da Shimano, boh. Infatti, adesso quando ritiro mi prendo un mulinello, anche se non è di marca, ma che sia un buon mulinello. Per quella 3,50 metri, perché quello che c'ho fa schifo. Eia, ma io avevo preso un Okuma, Okuma con la K, da Ocean, non è malvagio, ma anche i cinesi ormai, bene o male, se certo non durerà 20 anni, ma è a basso costo. Eia, poi sai cos'è, adesso il signor Mura in via Manno era molto fornito di canne e mulinelli di tutti i tipi. Che adesso chi c'è che fa? Ah beh, tu dici Sportland, c'è giustamente. Forbice non so se abbia roba per la pesca, ma non credo. Non so se abbia canne, però si pure. Comunque Sportland è molto molto fornito. C'aveva quelle belle lenze super rinforzate, erano un bijou, molto flessibili anche, lo sai. Sembrava seta. Chissà che materiale. Beh, era sempre roba sintetica comunque. Infatti, ma la forbice non c'è andare io a una farmacia, è proprio, c'ha tutto per la pesca, ma è caro e sangue, non ci puoi andare. Pure caro, caspita. Bene, bene, aio Claudio non rientra, Claudio, aio, molto ci vuole, mica chiudiamomi. Ci andiamo a vedere il telegiornale. A proposito, adesso guardo cosa c'è in televisione stasera, che si capì cosa vi può sì. Guarda, un film carino con Mel Gibson, Arma Letale 3, e lì si spara molto, Arma Letale 3 sul 22, credo, Iris. E poi di interessante c'è sul 27, quello della cometa, Deep Impact, quello della cometa che si schianta sulla Terra. Oh, io vado a portare il cane, allora ci siete troppo, ok? Ehi, comunque sta rimbombando troppo la radio, Claudio. Troppo rimbombante, forse o ti devo avvicinare o abbassare. No, vabbè, ero a più di un metro, così bene va. Ottimo. No, è un bel lontano, capito. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, vai a fare la pipì, vai assieme al cane. Ciao, ci sentiamo. Oh, ciao Massimiliano, ci sei ancora, ciao. Ci sentiamo, dai. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, stiamo mettendo il cappetto nel cane e stiamo andando via, ciao. Oh, guarda lì, da dietro si vede questo cane, c'ha due kiwi, cazzo, ma maturi però. Anche lui ha diritto a sfogare. Com'è il bip, Natalì? Normale? Eia. Qua è disinseribile. Ho provato a metterlo per vedere se funziona. Ok, non ti credermi. Anche il circuitino del bip va fatto lavorare, perché se non lo usi mai, se lo escludi con la levetta, poi si sciabideggia pure quello. Adesso faccio una prova. Ora, ora. Ora, lontano tutto il braccio. Lontano tutto il braccio. È ancora capibile, sì, quello che sale. Eia. Eia, Valerio, Valerio, ci sei ancora? Tu hai detto che non peschi, vero? Tu non vai a pesca, no? Nemmeno sub? O sì? Eia, magari andando in gruppo ci si diverte di più. Poi te l'ho detto, porti una bella bottiglia di vodka, magari al melone e si fa festa altro che pescare. Ehi, fa così. Oppure a scelta, o il rum, che piace di più il rum, o il gin, no, quello è troppo pungente però, ma... E poi essere cotti a tal punto da non poter guidare, dormire in spiaggia, bisogna portarci il cappello, mi sa. È la tenda. Ehi, è meglio ancora, solo che, mamma mia, attira troppo l'attenzione. Guarda che di notte non ci va nessuno a controllare di notte, dai. Sì, mi porta via Glock. A te ti do la beretta, quindi chi ci tocca? Per difesa. Occhio che io intenda scorreggio sempre. Cazzo, così ci scappa il conflitto a fuoco. No, che se spari poi i gas esplodono, capito? Salta in aria la tenda. Infatti io ho bisogno di una tenda a parte, così mi posso divertire. Che bastardo. Che poi diventa una camera a gas, mi la tenda. Diventa una camera a gas, mamma mia. No, ma tu lo so cosa fa, gli fai un buco in corrispondenza. E scarichi fuori. Eia, ho un tubo collegato alle mutande. Le mutande con un tubo corrugato che sfoga fuori. Così chi passa dice, mamma mia, ogni avviaggio. E poi non devono passare fumando, che pericoloso. Ci può essere un ritorno di fiamma, pericolosissimo. Oi, oi, beato chi ha fatto campeggio, anzi vi dirò, beato chi da piccolo ha fatto lo scout, perché è una cosa che avrei voluto fare, pensandoci adesso, purtroppo da bambino ero troppo mammone, guai a staccarsi dalla mamma, vabbè che adesso ero altissimo. Cazzo, viene una scena, sì. Cioè non ci volevo andare a fare lo scout, sai, invece sarebbe stata una cosa formativa buona. E anche a fare campeggio, solo che a me non piace il campeggio organizzato, no? Dove c'è tutto, a tale ora devi tornare, a tale ora chiudono, a tale ora si dorme. A me piace il campeggio selvaggio, in zone proprio non regolari, diciamo, in zone vietate anche. E tanto è tutto vietato, a parte il parcheggio, a parte il campeggio organizzato tipo il Calic, no? Il Mariposa, è tutto vietato. Ma loro te la scattano questa storia dell'ambiente. Cioè, cosa, che male può fare uno in tenda che dorme la notte? L'importante è non accendere fuochi, quello sì. O fiamme libere, diciamo, dai. Cazzo, oggi ho fatto queste crocchette di riso, perché mi avevano fatto un po' di riso, ne avevo cotto troppo. E sono uscite di riso. Oggi ho mangiato pasta e ceci col finocchietto, buono, buono, buono. Beh, anche i ceci fanno il loro effetto comunque. Mamma dei turchi. Bene, bene, bene. Valerio, riprendi. Tu l'hai fatto lo scout, il boy scout. Io mi sono pentito di non averlo fatto da piccolo. Ma perché? Cos'è? Troppo a gerarchia, troppo a regole. Dimmi come mai. Ah, così è, eri una peste. Eia. E poi sai cos'è? In queste cose di scout c'è sempre di mezzo l'attività cattolica, cioè tutti gli scout credo siano di religione cattolica. Perché non fanno un corpo di scout neutro, che non sta con la religione appresso? Capito? Un corpo di scout non religioso, tipo la Gisci, quelle cose là. Eia, sì, perché si sale di grado quello che è, capo scout, no? Ma a certi piace, sai, la vita all'aria aperta, il campeggio lì, è una cosa bella, dai. Però ero troppo mammone da piccolo, è una cosa proprio patologica. E vabbè, uno o ce l'ha l'indole o non ce l'ha di farlo. Io l'ho fatto al Sacro Cuore, ero nei cinghiali. Sì, hai parlato, sì, quasi in due. Vabbè, ho capito tutte e due. Eh sì, purtroppo. Sì, sarebbe bello un corpo scout laico, senza che la Chiesa metta il suo naso in mezzo, che mette sempre il naso dappertutto la Chiesa. Ma una curiosità, negli scout, se uno è ateo, non lo prendono, vero? Oh, qual è? È una domanda che mi sono posto, vabbè che sono tutti... Io non è che sia ateo, proprio ateo, diciamo che sono dubbioso, può darsi che ci sia un creatore di tutto, ma ricordati che la Bibbia, tutte queste regole sono scritte dagli uomini. Uno un giorno è venuto a dirmi che la Bibbia l'ha scritta Dio. Ho detto no, frena, aspetta, le Bibbie erano scritte gli uomini, quindi si potevano inventare di tutto a quell'epoca. Adesso ti passo a mia moglie così ti fa diventare torna cristiano. No, ma io non è che io sono battezzato, quindi è come che fossi cristiano, però non sono troppo praticante, capito Nathalie? Non sono praticante. Ma manco io, però ecco, chi? Marco, non lo sa neanche che era il mio anniversario di matrimonio. E poi, Nathalie, com'è che si dice, la fede uno ce l'ha o non ce l'ha? Io preferisco agire con la ragione e ragionare sulle cose, anziché prenderle così, alla cieca, prenderla così come viene. Io ho bisogno di prove, di... come dire, io sono come San Tommaso, vuole toccare con mano le cose, verificare... Sono rientrato. Ben entrato, stiamo parlando di religione. Tu lo scout l'hai fatto, Claudio? Che cosa? Tu il boy scout l'hai fatto da piccolo? No, aspetta il telefono. Vabbè, dai. Sì, ci vorrebbe un corpo di scout tipo paramilitare, mi... Sarebbe interessante come esperimento sociale. Una piccola gerarchia anche un po' rigida, mi. Così i bambini vengono raddrizzati un po' di schiena e non vengono su come delinquenti. Ci voleva anche il servizio militare, mi, perché agli scoppiati gli davano una bella lisciata. E magari invece quelli troppo timidi si svegliavano un po', vero Nathalie? Sto occupando i denti allo muro. E tu Valerio, come sei? Molto praticante? Sei convinto? C'hai la fede? Eia. Per esempio, io non ho fatto né la cresima né la comunione, perché mia madre, che era molto intelligente, ha detto: Marco, ci credi? Se ci credi, lo fai. Se non ci credi, non lo fare a forza, perché è un inganno che tu fai alla Chiesa o addirittura contro te stesso. Quindi se ci credi lo fai, se non ci credi non succede niente. Infatti io niente crisi ma niente comunione, io sono uno spirito libero. Eia. Ma ho perso il filo del discorso, cosa ho detto? Sono uno spirito libero. E poi ho perso il filo, succede troppo spesso però di perdere il filo. Cosa dicevo, altro che mandare i propri figli a fare il chierichetto dai preti. Hai visto cosa succede? Devi mandare tuo figlio con le mutande di ferro dai preti, capito? Che si hanno manie strane. Sicuramente l'ha preso come te. Purtroppo la Chiesa, diciamo che adesso le cose si scoprono, magari un secolo fa, 10 secoli fa, succedevano lo stesso ma non si sapeva. Sai, prima c'era molta omertà, adesso per fortuna le persone parlano e dicono cosa è successo, sempre che siano sinceri e che non siano metodi per spillare i soldi alla Chiesa, mi, facendo cause, capito? Perché c'è anche quella gente, mi, che simula il reato per avere i soldi, mi, per avere risarcimenti. E poi, cioè, loro che sono uomini di Chiesa, a maggior ragione dovrebbero essere ancora più, come si dice, retti. capito, persone proprio di cui non puoi nemmeno dubitare, invece è uno schifo sì. E in più, di solito, com'è che si dice, il Vaticano, insomma, tutte le autorità della Chiesa tendono a coprire questi fatti, capito? Cioè loro dicono che si vogliono lavare i panni sporchi, si lavano dentro casa, capito? Però anziché punirli, per esempio li fanno cambiare parrocchia, li mandano altrove, però non lo sanno che questi una volta che sono altrove possono fare la stessa cosa. Ci vuole una punizione, capito, di un tribunale, no? La prendono troppo alla leggera loro, capito? Li trasferiscono e credono di aver risolto il problema. Sì, perché se uno lo fa una volta lo può fare sempre, come hai detto tu, tanto più se va in altra sede, non lo conosce nessuno, nessuno sa se è affidabile. Natalie, e tu? Non glielo spareresti un colpo in testa a questi qua? Ah, ma tu non lo senti Valerio, mannaggia. Non lo sento, non arriva qua, è quello. Porca paletta, via. Dimmi cosa c'è? Cosa c'è? Niente. Natalie non lo sente a Valerio, ma gli ho detto porca paletta. Ma comunque, caspita, è abissale mi Claudio la differenza, cioè Valerio qua, vabbè, questo Smith dice 9,5, da 9,10 modulato, ma fai che sia 9, è abissale la differenza tra me e Natalino, io ho anche 50 metri di cavo, mi dà un bel di perdita, ma vabbè. Puoi fare alzata con l'antenna, certo, più di tanto non puoi fare lì, però alzata è già un bel lavoro se si fa. E Natalino ha detto, se mi scoccio ci butto tutto. Sì, ma guarda, alla fin fine non ci devo buttare niente, però voglio vedere a te. Lo sacrificio lì abbiamo fatto per fare questo lavoro, che se poi fa farosa. Vabbè, lasciamo perdere, già vuoi la gente malata e basta, venuta a vano. Ti stavo chiedendo prima, tu hai fatto il Boy Scout da piccolo? No, facevo il Boy, ma lo Scout no. Saresti stato il diavolo e l'acqua santa, eh? Saresti stato il terrorista di Boy Scout. Cazzo, non ho più palle. Mi legava la porta, mamma, lo blocco per non uscire. Ti contavo cattivo, lascia perdere, meglio niente. Poi si cambia, si fa, capito, però. Vabbè. E vabbè, ma non sei uscito per niente oggi. Bah, è un casino lì a Natalino, credimi. Purtroppo, sai cos'è, tra lì riceve un po', riceve basso, in più ha questo forte QRM elettrico che gli arriva anche a 9 certe volte. In più si lamentano i vicini, adesso questo giornalista gira sarà tutto il giorno lavorando, pare strano, anche domenica, ma ci mancava solo il computer disturbato, ma a me pare strano. Vabbè, posso ammettere che entri nelle casse, quello sì, ma che disturbi il computer proprio, ma i vicini sono una maledizione, quando sei CB i vicini sono una maledizione, purtroppo siamo condannati a quello. Tra l'altro bisogna abitare una villetta bella in alto, da soli, poi puoi fare il cacchio che vuoi, avere i soldi però. Oh raga, mi è arrivato un messaggio aziendale, queste non sono cose da sottovalutare. Cioè abbiamo allerta meteo per domani mattina. Io ho codice rosso sui sollevamenti. C'è un temporale di passaggio nord-occidente. Di passaggio acqua a catenelle domani mattina. Oh! Vabbè dai, già ce ne siamo a casa, credo. Caspita, non lo sapevo, dai, meglio saperlo, dai. E quindi siete un po' mobilitati, ok? Mi è arrivato adesso, non mi è arrivato da Cagliari. Leggendo, ma già aveva già accennato Massimiliano domani al tempo brutto, adesso l'hanno confermato anche a me. Sì, nord-occidente, poi non è settentrionale, nuvolo quella zona, nord occidentale, Sarda, quindi Alghero, Sassari, Porto Torres, Olbia, Tempio, tutta la zona nostra, la massa che ne rivaglia. Temporale però, mi staccate le antenne, non è che piove solo. Come l'altra volta, tuoni, fulmini, a tutto andare. Ma dimmi, Duca, sembra più domani che c'ho un sacco di cose da fare. Che rottura di balle, guarda. Sì, sì, guarda, sei di mattina, poi sei di mattina presto, io stacco da stanotte, stacco tutto. E mi sa che mi porto il baracchino anche da in camera mia. Lo tolgo proprio dalla rete elettrica. E vabbè, dai. Già passa, dai, se è di passaggio poi si scarica e passa. Vai Valerio. Ah, mi dispiace per voi, ma io un altro budino me lo devo mangiare. E infatti devo fare le analisi del sangue, le solite, emoglicemia, tutto, emocromo, tutto quanto. Speriamo che mi diano anche buone notizie. Degli altri. Natalino, riprendi un po'. Sto mangiando. Anch'io. No, io mi sto mangiando un budino, così perché ne ho voglia. Buona cena, Natali, dai. Io, che ne so, esci a vedere. Le 8. Che ore sono, Claudio? Ah, quindi mi state facendo perdere anche il telegiornale. Eia, ora vedete il telegiornale, dai. Tutto schifezze, tanto mi. Ciao Claudio, ciao Natalino, dai. Ciao Valerio, ciao a tutti, dai. Ci sentiamo domani, ok? Ciao, domani sera però mi, quando è passato il temporale. Ciao, ciao, vai Claudio. Eia, scusa, stavo rispondendo al messaggio. Va bene, sì, sì, adesso dobbiamo vedere se, perché tante volte lo dicono, poi non è così, comunque, va bene, beh. Ciao Marco, alle prossime, che ore sono? Le 8. Va bene, avanti Natalia. Saluto anche io che sto scrivendo, avanti. Ciao, ciao Natalia, domani, avanti, vai. Ciao Padre Roberto, va bene, dai, ci aggiorniamo domani allora, per tutti, la buonanotte, buona cena, buon tutto. A domani, passo e chiudo, ciao ciao. Allora, 1, 2, 3, prova. Allora, 1, 2, 3, prova. A, 1, 2. Chi è che sta chiamando qua?